Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Chiuse le iscrizioni per la primaria e la secondaria inferiore, che fine ha fatto il tetto del 30% per classe per gli alunni stranieri? Abbiamo pensato di fare una verifica oggi, visto che se ne è parlato tanto, che la cosa ha animato anche un dibattito politico piuttosto vivace. E la verifica la facciamo in una zona milanese diventata simbolo dell'immigrazione, via Padova, dove il 13 febbraio, come ricorderete sicuramente, un ragazzo egiziano di 19 anni è stato ucciso da altri ragazzi sudamericani, dove poi è scoppiata una specie di rivolta. Francesco Cappelli è il dirigente scolastico della scuola primaria dell'ex Parco Trotter, a un passo appunto da via Padova. La scuola è una dei quattro poli start della città, cioè uno dei quattro poli di riferimento proprio per la gestione degli alunni stranieri, visto il numero altissimo di quelli che siedono fra i suoi banchi. Quanti hanno sforato il tetto? Ce lo racconta il dirigente scolastico Francesco Cappelli. Nessuno, perché l'accordo era, la consegna era comunque di acquisire tutte le iscrizioni, perché prima di fare qualunque cosa, dopodiché l'ufficio scolastico provinciale ci ha chiesto di inviare dei dati organizzati in questi termini. Per la prima media, l'iscrizione alla prima media, sapere quanti sono gli alunni iscritti alla prima media di altra nazionalità. Poi di questi di sapere quanti hanno una frequenza scolastica almeno degli ultimi 3 anni. Per quanto riguarda la prima elementare, sapere quanti sono nati in Italia e quanti hanno una scolarità pregressa, quindi almeno di materna, di almeno gli ultimi 2 anni. Con questi dati, la percentuale che inizialmente era del 50% scende all'8-9%. Quindi una percentuale piuttosto bassa, insomma, quasi irrilevante, cioè, al di sotto dati di qualsiasi tetto. E criteri che in accordo con l'ufficio scolastico provinciale determinano la facoltà delle scuole di chiedere una deroga al 30%, deroga che peraltro il direttore scolastico regionale darà, insomma, o comunque con ogni probabilità riconoscerà. Quindi devo dire che alla fine ci sarà un dato interessante di ritorno, nel senso che sapremo che alla fine la grande maggioranza di questi alunni cosiddetti stranieri, hanno una scolarità di almeno 3 anni o 2 anni se sono piccolini, che garantisce meglio di qualunque altra cosa una competenza linguistica tale da consentirgli di essere, come dire, incardinati nel sistema scolastico senza altri problemi. Ecco, questa è un po' la sostanza della cosa. Insomma, tanto rumore per nulla, vien da dire, perché tutta la bagarre che si è fatta su questo benedetto 30%, e sì che stiamo parlando nel suo caso di una zona a forte immigrazione. Ma io francamente l'ho detto da sempre, lo dico da sempre, dobbiamo capire cosa intendiamo per bambino straniero. Se fossero il 30% di neo arrivati, cioè di trasportati in quel momento di sana pianta dall'estero in Italia, è chiaro che potrebbero configurarsi in una scuola, potrebbe configurarsi una certa problematicità, insomma, no? Occorrerebbero in quel caso, io dico, molte risorse in più per affrontare questo discorso, non dovrebbero dare luogo, a mio avviso, neanche in quel caso a trasferimenti o a riequilibrio. Certo, se in un territorio c'è una scuola che ha il 50 e un'altra che ne ha il 10, la scuola vicina, è chiaro che bisogna riequilibrare tra le due scuole, però diciamo che in questa situazione dove molti bambini, perché c'è un fenomeno di stabilizzazione, la componente, diciamo, straniera della popolazione che insiste sul territorio milanese si va stabilizzando come famiglia. Insomma, non sono stranieri, sono nuovi italiani. Esatto, sono nuovi italiani per me, ma anche credo per chi gli dà lavoro, per chi gli dà la casa, per tutti quelli che vivono una vita normale in regola, insomma, certo, che sono comunque la maggioranza, ecco. E soprattutto delle famiglie che mandano i figli a scuola, ecco, da noi. E questo è molto importante, perché è proprio qua, certo, che si impara ad essere italiani, insomma, no? Fra i banchi di scuola, ecco. Certo. Lei è il responsabile START, che è questo progetto partito a Milano, se non sbaglio, nel 2008, quindi è un paio d'anni già che c'è, finalizzato proprio all'osservazione, alla gestione degli alunni stranieri o nuovi italiani, se vogliamo ormai chiamarli così, nel nostro paese. Come sta andando questa sperimentazione? Cosa avete fatto? In particolare, in concreto, l'anno scorso abbiamo gestito una tornata di corsi primaverili, corsi di lingua 2 per bambini arrivati da poco. Però in sede di polo si sono stati fatti incontri, si è creata una consuetudine dei dirigenti scolastici di consultarsi sulle problematiche dell'integrazione, sono stati fatti interventi di formazione per gli insegnanti. L'obiettivo è anche che quello di non far andare avanti le scuole ognuno per conto suo e dover gestire questi poveri dirigenti scolastici come lei, che devono gestire da soli una problematica, una realtà che ormai è davvero a Milano così diffusa, ma insomma potersi parlare, scambiare opinioni, scambiare risorse. Scambiare anche esperienze. Questo è lo spirito e in questo senso le scuole hanno risposto molto bene, per cui il polo è già una realtà sul territorio, riconosciuta anche in ambito di altre associazioni, eccetera, per cui noi poi che siamo qui tra Viale Monza e via Padova possiamo svolgere anche un ruolo positivo a questo livello, insomma, ecco. Quindi cosa si può fare di più? Diciamo che adesso più che la prima accoglienza e il laboratorio linguistico iniziale c'è bisogno forse di garantire maggiore qualità l'italiano per lo studio, piuttosto che favorire sul territorio a livello sociale maggiore integrazione per le famiglie, quindi maggiori contatti, far crescere. Quindi passare dalla scuola al sociale, dalla scuola diciamo, al sociale, uscire dalla scuola da sola può garantire al meglio l'integrazione a livello di frequenza scolastica e di vita scolastica, ma sul piano esterno non può fare molto, però può facilitare l'incontro tra le famiglie, con le associazioni, rendersi disponibile con le altre realtà presenti, insomma creare uno spirito diverso. Come avete sentito, Cappelli è sicuro di ottenere la deroga, anche se il direttore scolastico regionale Giuseppe Colosio ha fatto sapere che non è tutto così scontato e che si deciderà a Milano caso per caso. Da Savona, la storia di una scuola che ha preso un provvedimento per i ritardatari piuttosto originale: spedirli a fare volontariato alla Caritas. Il dirigente scolastico Giovanni Battista Siccardi. Guardi, le scuole superiori sono afflitte, tutte sono afflitte da problemi di frequenza, nel senso che ci sono molte assenze e ci sono molti ritardi. Questo è un problema generale della scuola italiana. O non si presentano o si presentano in ritardo. Sì, certo, questo è un problema, ripeto, generalizzato, no? Che tutte le scuole cercano di affrontare, anche il Ministero sta cercando anche mezzi anche di tipo elettronico per fare questi controlli e avvisi alle famiglie sulle assenze dei figli. Allora, non può andarseli a cercare per tutta Savona e riportarli a scuola, però almeno li può in qualche modo redarguire quando arrivano in ritardo. Distinguendo fra i ritardi dovuti ai treni, perché la nostra scuola è una scuola che serve un grande bacino di utenza, e quindi ci sono quindi treni e autobus, quindi bisogna distinguere i ritardi dovuti a causa di forza maggiore, ma dall'altro bisogna anche distinguere i ritardi e le assenze dovute a negligenza. E allora che cosa ha pensato per questi ragazzi che arrivano in ritardo non a causa di un treno che purtroppo, come sappiamo, puntuale spesso non è? Che cosa li manda a fare? Quando sono in ritardo e noi verifichiamo questo ritardo in maniera elettronica, quindi sommando i vari ritardi che avvengono durante l'anno scolastico, quando si raggiunge una unità oraria scatta questo meccanismo di presenza alla Caritas, alla mensa della Caritas. E perché ha pensato a questo piuttosto che, non so, a far pulire i bagni della scuola, piuttosto che un brutto voto, piuttosto che insomma un altro tipo di punizione? Perché proprio la mensa della Caritas? Le punizioni classiche della scuola sono le sospensioni, sono i compiti in più, sono i voti in condotta negativi. Da quest'anno le scuole possono dare anche 5 in condotta, però sono sistemi, come dire, che si dovrebbero cercare di adottare quando ogni altra via è stata perseguita inutilmente. E quindi quest'anno, dopo aver fatto un'esperienza positiva durante l'estate, castigando alcuni ragazzi che a fine anno avevano fatto qualche scazzottata, diciamo così. Quindi abbiamo fatto una prima prova durante l'estate alla Caritas, che è stata positiva sia per la Caritas che per noi, che per i ragazzi e le famiglie. Di conseguenza poi alla ripresa dell'anno scolastico abbiamo pensato di come dire, questo castigo dei ritardi, ecco, di legarlo a questa presa di coscienza dei problemi sociali che Savona, come tutta Italia, ha inviato alla Caritas, con la quale abbiamo stipulato una convenzione. Ecco, lei dice è stato positivo il risultato dei primi esperimenti, perché? Che cosa le dicono le famiglie? Che cosa le raccontano i ragazzi di questa esperienza? Sai, i ragazzi quando devono andarci non sono così contenti, però abbiamo visto che al ritorno, al rientro, sono cresciuti, cioè lo dicono loro stessi, è stata un'esperienza che ci ha fatto crescere, hanno visto cosa vuol dire la povertà, hanno visto cosa vuol dire volontariato. Quanti ragazzi sono stati puniti in questo modo da ottobre? Una ventina al momento, adesso però partirà una seconda tranche di un'altra ventina. In chiusura, una notizia per quanti devono iscrivere figli alle superiori, hanno ancora tempo fino a fine mese. Sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione ci sono tutte le spiegazioni sulla riforma che partirà già il prossimo anno. Il sito è www.istruzione.it. Se invece volete riascoltare questa puntata come le altre di Obbligo di Frequenza, avete a disposizione il nostro di sito radio24.it.